lasciamo sì con rischio. Signora, io sono. Chi è costante alle pene, con improvviso bene, code perfine, tanto maggior la pace, quanto meno la spero. L'alma si sfalce alla fiamma d'amor. Crudel, ti intendo, t'accese son beta. Misere il cuore, che amando sempre ovunque non cangia amore. Al par di sorte, amor ama gli audaci. Se va bene, Argillano, ah, la brattaci. Ti grinda, ardo, udissi, ardo Argillano d'amore. Non manca il fuoco, si esce dalla sua sfera, esca già. S'accende, facile anche s'estingue. Il tempestivo timore, ferreo contro ragion. La face che già l'alma t'accese, con l'ardor di sua vampa ogni possente, ti segui il fin e l'importuna tema, tal che il tuo lardo t'accendo e spero si cangia in un istante la vicenda e la faccia del destino crudele.